Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono stati assicurati alla giustizia quattro terroristi davvero, davvero molto pericolosi che stavano progettando tutta una serie di attentati all'estero ma anche in Italia. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quello che parla è Adelchi d'Ippolito, che è il procuratore capo di Venezia, dove sono stati arrestati quattro kosovari che pare stessero preparando degli attentati a Venezia, volessero mettere, secondo alcune intercettazioni, una bomba proprio al Ponte del Rialto, che è uno dei simboli di Venezia, visitati da tutti i turisti. Ne parleremo, approfondiremo questo argomento anche con un esperto di terrorismo. E poco fa è arrivata la notizia, una rivelazione del quotidiano francese Le Figaro, che Parigi starebbe temendo un kamikaze con virus infettivi. Quindi, insomma, diciamo, c'è un certo allarme, poi capiremo se sono i soliti cosiddetti, per certi versi, lupi solitari, comunque, che fanno estremamente danno, come abbiamo visto a Londra pochi giorni fa. E poi ci occuperemo dei dazi con cui Trump minaccia l'Europa. Ci sarebbe nel mirino anche la Vespa, Piaggio e molti prodotti italiani, cioè metterebbe delle imposte al 100% per vendicarsi del fatto che l'Europa non vuole accettare la carne con gli ormoni degli Stati Uniti. Molti altri argomenti. Ci soffermeremo ancora un po' sulla Brexit, che è partita ieri praticamente in modo ufficiale, perché ci sono veramente delle questioni complicate e anche delle questioni di opportunità, di opportunismo, perché sembrerebbe che la Gran Bretagna non voglia più dare finanziamenti all'Unione Europea uscendone, ma che voglia però continuare a avere i finanziamenti, per esempio, per i propri agricoltori fino a oltre il 2020. Quindi non perdete neanche un minuto di Effetto Notte se volete essere costantemente aggiornati tutte le sere, dal lunedì al venerdì, sui fatti principali della giornata dall'Italia e dall'estero. Vi ricordo che per interagire c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Ma prima di tutto la sintesi della giornata. Stati Uniti, il presidente Trump annuncia dazi sui prodotti europei, compresi quelli italiani, una vendetta per la carne agli ormoni. Gentiloni commenta: un errore, la qualità non ha frontiere. Anche Facebook Italia critica il protezionismo. Brexit, oggi giorno 1 del divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Lungo sarà anche l'iter per valutare tutte le direttive europee acquisite e selezionare solo ciò che al Regno Unito interessa mantenere. Terrorismo, blitz a Venezia contro una cellula jihadista che voleva mettere una bomba al Ponte di Rialto. E in Francia Le Figaro rivela: Parigi teme un kamikaze con virus infettivi. Movimento 5 Stelle, per la bagarre sui vitalizi alla Camera, 19 pentastellati sospesi per 15 giorni, 29 per 10 giorni. L'omicidio di Alatri, Emanuele Morganti, secondo l'autopsia sarebbe stato sfigurato da tantissimi colpi in testa. Procura di Trani, tutti assolti gli imputati delle agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch, che declassarono l'Italia. Amarezza dei PM, che dicono però: noi abbiamo condotto una battaglia. Puglia, in Salento il gasdotto TAP, fermi fino a lunedì i lavori di espianto degli ulivi. Pensioni, all'inizio del 2017 risultano in essere oltre 18 milioni, lo rivela l'INPS. Il 63,1% di queste ha un importo inferiore a 750 euro, per le donne per il 76,5%. Partiamo quindi dagli Stati Uniti con il presidente americano Trump. Avete sentito, minaccia l'Europa. Washington infatti valuta di imporre dazi punitivi del 100% sui prodotti dell'Unione Europea e anche le Vespe Piaggio, per esempio l'acqua Perrier francese, il formaggio Roquefort, in risposta al bando europeo sulla carne agli ormoni. In borsa ha sofferto un po' il titolo Piaggio, ma l'azienda si dice non preoccupata, in quanto il mercato statunitense pesa meno del 5% del fatturato. La qualità non ha frontiere, commenta Gentiloni. Anche Facebook si schiera contro i dazi, sono un mezzo disastro, dice il responsabile Italia Luca Colombo. Intanto migliora anche l'economia, migliora l'economia americana, il PIL, il prodotto interno lordo del quarto trimestre, è stato rivisto al rialzo. Molte comunque le reazioni a questo annuncio dei dazi del mondo industriale. C'è preoccupazione e cautela in Confindustria sulle indiscrezioni che rimbalzano dagli Stati Uniti sull'intenzione dell'amministrazione Trump di imporre dazi punitivi del 100% su alcuni prodotti europei e italiani, inclusa la Vespa. I dazi sono nemici delle imprese, dice il vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, Licia Mattioli. I contraccolpi sarebbero tanti, anche perché non c'è il peggior nemico delle aziende del dazio, quindi sarebbe veramente una cosa molto negativa per tutta l'economia. Ma avete visto anche gli stessi americani che stanno dicendo che questa politica non è una politica da perseguire. Commercio internazionale e protezionismo saranno due dei temi al centro del B7 delle imprese dei paesi più industrializzati, organizzato da Confindustria in vista del G7 di Taormina. E proprio da qui potrebbe arrivare una soluzione. Il libero mercato ha un senso di essere sei libero, no? Cioè sei uguale nei due sensi. Adesso vediamo che cosa succederà. Non siamo precipitosi, perché a volte siamo tutti troppo precipitosi. Cerchiamo di capire se si può arginare questo fenomeno, se appunto grazie al B7, al G7 più avanti si rientri un po' nella normalità, no? Perché l'America è uno dei nostri partner storici, non vedo perché dovrebbe tornare indietro, insomma. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi ci collegheremo con gli Stati Uniti proprio su questo tema per avere più dettagli. E Trump, per le sue politiche, preoccupa anche la Chiesa. Oggi è arrivato un attacco del cardinale Turkson, uno degli uomini più vicini a Bergoglio, il prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Parlando ai giornalisti a margine di un convegno, si è scatenato contro le mosse della Casa Bianca verso i paesi in via di sviluppo e sul recentissimo ordine esecutivo sull'ambiente. Sapete che Trump vuole rilanciare lo sviluppo del carbone e levare tutti i paletti sull'ambiente che aveva messo Obama. Per la Brexit invece, Gran Bretagna, oggi giorno 1 del divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Lungo sarà l'iter per valutare tutte le direttive europee acquisite dalla Gran Bretagna per selezionare solo ciò che al Regno Unito interessa mantenere, una cosa complessa considerando che sono oltre 12.000 le leggi europee in vigore nel Regno Unito. Ne parleremo dopo con un esperto di Gran Bretagna. E poi l'argomento terrorismo. A Venezia, avete sentito, è stata sgominata una cellula jihadista, volevano mettere una bomba al ponte del Rialto, 3 le persone arrestate e un minore fermato, tutti kosovari, 12 le perquisizioni. Secondo i magistrati erano impegnati in una vera e propria attività di autoaddestramento per prepararsi a compiere attività criminali. In una delle intercettazioni si sente che dicono: a Venezia guadagni subito il paradiso per quanti miscredenti ci sono qua, metti una bomba a Rialto. E poi approfondiremo anche questa vicenda più tardi con un esperto di terrorismo. A proposito di terrorismo, il quotidiano francese Le Figaro, in notizia di poco fa, rivela: Parigi teme un kamikaze con virus infettivi e cita un rapporto della difesa. I terroristi cercano attivamente di dotarsi di mezzi nucleari, biologici o chimici, per accreditare l'idea che dispongano di armi di distruzione di massa. Tra le varie minacce ci sarebbe anche quella di usare kamikaze infetti di malattie contagiose, così prosegue il giornale, citando un rapporto del segretario generale della difesa e della sicurezza nazionale. In questa direzione preoccupa un furto batteriologico non ancora chiarito in un ospedale di Parigi nel maggio scorso. E siamo alla politica italiana. L'ufficio di presidenza della Camera ha deciso di sospendere per 15 giorni i 19 deputati del Movimento 5 Stelle che lo scorso 22 marzo tentarono di fare irruzione nell'ufficio di presidenza mentre si votavano le delibere sulle pensioni dei parlamentari. Altri 10 giorni sono stati comminati a 29 deputati, sempre pentastellati, per le proteste che nello stesso giorno hanno causato lo stop in diretta TV e impedito la prosecuzione del question time in aula. Le sanzioni scatteranno però dopo l'approdo del biotestamento alla Camera, in modo che vi possano partecipare. Per protesta, il Movimento 5 Stelle oggi ha inscenato un flash mob davanti a Montecitorio, poi ci occuperemo anche di questo. Intanto arriviamo all'economia. Risparmio è nei depositi il 30% della ricchezza delle famiglie italiane. Circolante, depositi postali e bancari tornano tra le principali forme di investimento degli italiani. Secondo la Banca d'Italia rappresentano il 30% circa degli impieghi, per un valore vicino ai 1.300 miliardi di euro, un 10% in più rispetto ai primi anni 2000, frutto soprattutto della crisi che ha portato le famiglie a rivedere la propria composizione delle attività finanziarie. Al contrario, spiega il governatore della Banca d'Italia Visco, il possesso di titoli obbligazionari, compresi quelli pubblici, la cui quota aveva raggiunto il 30% alla fine degli anni 80 è invece sceso oggi intorno al 10% del totale delle attività finanziarie lorde, la percentuale più bassa dal 1950. Con il calo dei rendimenti sui titoli di Stato, le famiglie italiane, spiega Visco, hanno ricercato rendimenti simili a quelli cui erano abituati, senza andare però a vedere i rischi. L'educazione finanziaria, ricorda quindi il governatore, è ovunque componente essenziale delle politiche di tutela del risparmio. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono notizie anche sulle pensioni, una rivelazione del rapporto dell'INPS nell'ultimo osservatorio sul tema pensioni. All'inizio del 2017 risultano in essere oltre 18 milioni di pensioni, con una forte concentrazione nelle classi basse. Questo numero non include le gestioni dei dipendenti pubblici ed ex EMPALS. Comunque il 63,1% di queste pensioni ha un importo inferiore a 750 euro. Per le donne ancora di più, ci sono ancora più donne, il 76,5% che percepisce meno di 750 euro al mese di pensione. Aggiornamenti sulle bollette: da aprile le tariffe elettriche subiranno un aumento del più 2,9%, mentre saranno in calo del 2,7% quelle del gas, lo ha comunicato l'autorità per l'energia, precisando che sulla luce pesano i rialzi di inizio anno nel mercato all'ingrosso. E arriviamo alla cronaca con la notizia arrivata poco fa sull'omicidio di Alatri. Emanuele Morganti, il ventenne pestato a morte fuori da un locale nella notte tra venerdì e sabato nel paese vicino a Frosinone, secondo l'autopsia sarebbe stato sfigurato da tantissimi colpi in testa, colpi sferrati con violenza tanto da provocare lesioni, chimosi soprattutto appunto sul capo, dove sarebbe stato inferto il colpo mortale aggravato dalla caduta del ragazzo contro un'auto parcheggiata. Questo avrebbe evidenziato l'autopsia effettuata oggi presso l'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, ricalcando quanto emerso dal primo esame esterno sul corpo del ventenne. La vittima avrebbe riportato anche numerose lesioni agli arti, probabilmente dovute alla colluttazione, e i funerali del giovane potrebbero tenersi già sabato. Un altro fatto di cronaca: un avvocato, Fortunato Calò, vicino Brindisi, ha sparato con una pistola e ucciso un suo cliente, accaduto questo pomeriggio all'interno di uno studio legale di Oria. La vittima è Arnaldo Carluccio, di Torre Santa Susanna, di 45 anni. A quanto ricostruito, Calò avrebbe subito dopo i fatti chiesto ai suoi colleghi di chiamare i carabinieri per consegnare l'arma e costituirsi. E andiamo a Trani, rimaniamo in Puglia, assolte le agenzie di rating per il declassamento dell'Italia. Assolve. Il fatto non sussiste e il fatto non costituisce reato. In meno di un minuto il tribunale assolve sei analisti di Standard & Poor's e di Fitch e sbriciola anni di polemiche sul processo alle agenzie di rating voluto dalla procura di Trani. Non ci fu dunque manipolazione del mercato con la diffusione di 4 report e il declassamento del rating tra maggio 2011 e gennaio 2012, quando anche l'impennata dello spread portò alla caduta del governo Berlusconi e l'Italia era nel mirino dei mercati. I giudici non credono alla tesi del PM, convinto che quei giudizi sulla tenuta del sistema economico e bancario contenessero informazioni false o imprudenti allo scopo di disincentivare l'acquisto di titoli di Stato e deprezzarne il valore. Non ci avevano creduto fin dall'inizio neppure Consob e Banca d'Italia, ma secondo gli inquirenti potrebbero esserci comunque presupposti per una richiesta di risarcimento. Valuteremo il ricorso, si limita a dire il PM Michele Ruggero dopo aver indossato una cravatta tricolore. Questa è una battaglia che abbiamo cercato di fare per ripristinare un po' di trasparenza e verità. Un'amarezza sottoscritta da Forza Italia, mentre esultano le agenzie di rating ora che giustizia è stata fatta, dicono. Le ipotesi erano sostanzialmente infondate. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi il gasdotto TAP in Salento è stato sospeso almeno fino a lunedì, l'espianto degli ulivi dopo il 14° giorno di proteste contro la realizzazione dell'opera. Bisogna riaprire la procedura di valutazione di impatto ambientale, ha detto il sindaco di Melendugno, Marco Poti, dove appunto si concentrano le proteste. Per chiudere parliamo di RAI. Nel settembre dell'anno scorso la legge per l'editoria stabilì un limite ai compensi RAI sotto i 240.000 euro, ma per gli artisti le cose potrebbero andare diversamente. Ritengo che l'estensione del tetto agli stipendi degli artisti sia improprio e ora c'è un parere dell'Avvocatura dello Stato che lo sostiene in maniera più autorevole di me. Lo ha detto il sottosegretario alle comunicazioni Antonello Giacomelli. L'Avvocatura dello Stato, principale consulente giuridico del governo, dubita che il tetto dei 240.000 euro lordi annui valga anche per gli artisti della RAI. Manager e dipendenti dovranno guadagnare al massimo questa cifra, come ha stabilito la legge sull'editoria del 2016. Gli showman però non è detto. Il limite, ha spiegato Giacomelli, è improprio anche rispetto all'idea della RAI che ci siamo dati, cioè di un'azienda che deve poter stare sul mercato. Se avessi condotto io il Festival di Sanremo, ha scherzato, Campo dall'Orto avrebbe sicuramente risparmiato, ma non avrebbe ottenuto gli stessi risultati. E proprio il direttore generale della RAI, Antonio Campodall'Orto, dice: il parere dell'Avvocatura di Stato ci rende fiduciosi, ma spiega: aspettiamo atti formali prima di portare la questione in CDA. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, direi che la sintesi è completa e quindi possiamo aggiornare tra pochissimo chi viaggia, in modo da ritornare subito, cominciando ad approfondire alcuni argomenti che già vi anticipavo all'inizio. Cominceremo dalle complicazioni che riguardano la Brexit, che uno neanche si immagina, in tutte quante procedure previste da questo iter che durerà 2 anni. E poi parleremo del sventato attentato a Venezia, dei dazi che Trump vuole imporre all'Europa. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Qualcuno scrive: Claudio, Kosovari, qualcuno ha bombardato Belgrado, per loro eppure erano note le infiltrazioni di Al-Qaeda, allora come la mettiamo? Nemici a comando, dice Claudio. E poi invece Walter si compiace, dice: jihadisti, bombaroli a Venezia, siamo troppo bravi, appena ci provano li becchiamo subito. Molto bene se è proprio così, ne parleremo con un esperto di terrorismo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie le avete sentite in questo riassunto, ma visto che siamo insieme 60 minuti, ogni poco ve le ricordo. Roberta Giordano sempre con voi. Tra poco cominciamo a scendere nel cuore degli argomenti con gli ospiti per interagire con Effetto Notte. Lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio e scrivere anche da ogni paese del mondo, perché Effetto Notte è ascoltato in tutto il mondo. E poi al 349-238-6666. Qualcuno già commenta sulle pensioni. La notizia che ho dato poco fa, Alberto dice: la situazione pensionistica italiana va male, ma andrà ancora peggio, in quanto tantissima gente arriva in tarda età senza requisiti per usufruire della pensione lavorativa o perché ha svolto lavoretti precari o per disoccupazione, così la strada è unica. Alessandro poi scrive: il 40% di disoccupazione giovanile e non, consideriamo gli occupati con contributi irrisori, significa che tra meno di 40 anni, con tutto questo, la situazione sociale sarà devastante, con milioni di pensionati poveri e senza casa. Allora, tra poco cambiamo argomento, però vi ricordo di cosa abbiamo principalmente parlato. Stati Uniti, il presidente Trump che annuncia i dazi sui prodotti europei, compresi quelli italiani, e il presidente del Consiglio Gentiloni che commenta: è un errore perché la qualità non ha frontiere. Contro questi dazi anche Facebook Italia, che critica il protezionismo. Brexit, oggi giorno 1 del divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea, parleremo tra pochissimo di quanto sia complesso l'iter. Terrorismo, blitz a Venezia contro una cellula jihadista che voleva mettere una bomba a Ponte di Rialto, e nel frattempo il quotidiano francese Le Figaro rivela che Parigi teme un kamikaze con virus infettivi. Movimento 5 Stelle, sospensione per 19 pentastellati per 15 giorni e per altri 29 per 10 giorni per la bagarre dei giorni scorsi sui vitalizi alla Camera. L'omicidio di Alatri è arrivata questa sera, la notizia che riguarda l'autopsia Emanuele Morganti. Secondo questa autopsia sarebbe stato sfigurato da tantissimi colpi in testa. Procura di Trani, tutti assolti gli imputati delle agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch che declassarono l'Italia. Puglia, in Salento, gasdotto TAP, fermi fino a lunedì i lavori di espianto degli ulivi. E poi, per quanto riguarda le pensioni, all'inizio del 2017 risultano in essere oltre 18 milioni, lo rivela l'INPS, il 63,1 di esse ha un importo di questi 18 milioni inferiore a 750 euro. Per le donne questa percentuale così di pensione bassa aumenta al 76,5%. La giornata di ieri è stata dominata, come sappiamo, dalla decisione che era semplicemente il frutto inevitabile della libera e democratica scelta del popolo britannico, dalla decisione di avviare il percorso di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Certamente non una decisione che noi italiani e noi europei abbiamo accolto con gioia, tutt'altro. Abbiamo purtroppo accettata come una decisione legittima e democratica, ma certamente con rammarico. E questo è dispiaciuto, diciamo, sicuramente questa decisione dell'Unione della Gran Bretagna di staccarsi dall'Unione Europea. La reazione più forte probabilmente è stata quella del Presidente della Commissione Europea Juncker, che ieri ha detto: rimpiangerete questa scelta, rivolto ai britannici. Ha detto: oggi la Brexit non è la fine di tutto, la dobbiamo rendere l'inizio, anzi, di qualcosa di migliore. Poi ha dato una stoccata al presidente americano Trump, ha detto: Trump è stato felice che ci fosse la Brexit e ha chiesto che altri paesi facessero la stessa cosa. Se continua così, ha detto con una battuta Juncker, promuoverò l'indipendenza dell'Ohio e del Texas dagli Stati Uniti. Insomma, ieri, ve lo raccontavo anche qui con un ospite, anzi con due ospiti, c'è stata l'ufficializzazione dell'avvio della Brexit con questa consegna all'Unione Europea di una lettera firmata dalla prima ministra britannica Theresa May. E oggi è il giorno 1 quindi di questo iter, che durerà 2 anni. Al centro del primo giorno, dopo l'attivazione dell'articolo 50 che permette appunto questo divorzio, c'è il Great Repeal Bill, cioè la legge con cui la Gran Bretagna abolirà la supremazia della legislazione dell'Unione Europea incorporata nel diritto del Regno Unito. Questa verrà abolita, ma l'obiettivo del governo britannico è di convertire le norme europee giudicate necessarie in leggi nazionali. È un lavoro veramente complesso e articolato, se considerate che sono oltre 12.000 le leggi europee in vigore nel Regno Unito. Ne parliamo con il professor Domenico Maria Bruni, che è docente di storia contemporanea alla LUIS, esperto di Gran Bretagna. Professor Bruni, buonasera. Buonasera. Quindi che cosa vuol fare la Gran Bretagna? Vuole prendere tutte queste direttive europee che ha inglobato negli anni, e di queste prendere solo le parti che interessano? Allora, il problema è questo: come ogni Stato che fa parte dell'Unione Europea, la Gran Bretagna, nei suoi 44 anni di permanenza, prima nella Comunità Europea e poi nell'Unione, ha ovviamente assimilato e recepito tutta una serie di direttive, di leggi, di norme che sono state elaborate a livello comunitario, quindi sono diventate parte piena e attiva della legislazione vigente nel Regno Unito. Nel momento in cui la Gran Bretagna si separerà definitivamente, il percorso della Brexit arriverà a conclusione e quindi la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea, tutte quelle norme che sono state emanate a livello comunitario automaticamente decadranno. Questo crea un problema, perché lascia scoperta tutta una serie di settori prive di regolamentazione e di norme. Basti pensare ad esempio a tutta la legislazione comunitaria in ambito ambientale, in campo ambientale ad esempio. Quindi il problema è che, per evitare questo vuoto legislativo, occorre ovviamente agire prima che si concluda l'iter della Brexit, in modo tale da coprire quelle zone che rimarrebbero scoperte una volta concluso questo iter. Si tratta di una mole veramente imponente. Stavo leggendo oggi sul Times che il calcolo che è stato fatto sia di oltre 50.000 leggi e norme che devono essere assorbite nella legislazione britannica. Mamma mia. Quindi è una cosa pazzesca. In più c'è un problema, come dire, non soltanto di procedura ma anche di competenze, e qui si arriva di balance of power fra il Parlamento e il governo, perché ovviamente poter vagliare tutta questa serie di norme e poterle recepire adattandole al contesto britannico impone ovviamente dei ritmi molto serrati. Quindi l'idea che è stata escogitata, il tecnicismo che è stato escogitato, è quello di concedere al governo i poteri per poter sostanzialmente svolgere questo ruolo, rimandando poi in un secondo momento la possibilità per il Parlamento di intervenire, il che ovviamente sta generando una serie di malumori nella Camera dei Comuni, perché viene visto questo meccanismo come altamente lesivo di un concetto cruciale del costituzionalismo britannico, ossia la supremazia del Parlamento. Cioè, è il Parlamento, la Camera dei Comuni, che deve fare le leggi e non il governo. Quindi su questa questione credo che sorgeranno in prospettiva anche problemi interni, numerosi quindi. Problemi. Assolutamente sì. Anche perché una delle motivazioni della Brexit è da parte dei sostenitori dell'uscita dall'Unione era quella di dire: vogliamo riappropriarci dei poteri che la Costituzione britannica affida ai rappresentanti della nazione, cioè al Parlamento, e poi una volta che si va a discutere effettivamente di come portare avanti questa Brexit, questi poteri vengono di fatto esercitati al governo. Quindi la questione è molto spinosa e potrebbe veramente aprire una serie di problemi interni nel momento in cui si va avanti nel confronto con Bruxelles. Riecheggia la minaccia di Juncker, rimpiangerete questa scelta, insomma, poi bisognerà vedere. Professore, abbiamo veramente anche soltanto un minuto adesso. Sì. È vero che la Gran Bretagna ha detto che chiaramente non vuole più dare i finanziamenti all'Unione Europea come fa ogni paese, visto che se ne sta andando, però vorrebbe continuare ad avere i fondi per gli agricoltori fino a cos'è, il 2020-2022? Sì, si sta discutendo anche di, come dire, concordare un periodo di transizione una volta chiuse le trattative per la Brexit. Sostanzialmente le trattative devono durare 2 anni, dureranno 2 anni, in base a quello che dice l'articolo 50 del Trattato di Lisbona. L'idea che la Gran Bretagna non la sta mettendo avanti e potrebbe avere un senso anche per l'Unione Europea è quello di avere un periodo di 2, 3, 4 anni successivi alla chiusura delle trattative per diciamo rendere un pochino più diciamo meno brusco tutto questo processo di uscita a livello poi effettivo e concreto. L'importante è che non sia una questione opportunistica, ecco, diciamo, no? Per quanto riguarda i fondi, i finanziamenti. Comunque, insomma, siamo solo al giorno 1, vedremo quali saranno i giorni 2, 3, 1000, eccetera. Grazie. Ne vedremo delle belle, credo. Ne vedremo delle belle, sì. Se questo è l'inizio, vedremo poi cosa sì, succede. Sì, assolutamente. Grazie, professor Domenico Mario Bruni. Grazie, grazie buona a lei, serata. Buonasera. Ora invece restiamo in casa nostra. Intanto mi collego con la nostra Betta Fiorito a Roma. Ciao Betta. Buonasera. Perché a proposito dei deputati del Movimento 5 Stelle sospesi, mi sembra quasi di essere a scuola, sono stati sospesi per un tot di giorni, 19 deputati per 15 giorni, altri 29 se non sbaglio per una decina di giorni. Questo per quello che era successo, vi ricordate, il 22 marzo scorso tentarono di fare irruzione nell'ufficio di presidenza della Camera mentre si votavano le delibere sulle pensioni dei parlamentari, perché erano fortemente contrari e quindi volevano fermare l'operazione. Ci racconti un po', Betta? Ma allora, loro hanno tentato questa irruzione nell'ufficio di presidenza, questo qui ha causato anche dei problemi a dei commessi ed è successo che oggi sono arrivate le sanzioni, non ci sono state solo le proteste nell'ufficio di presidenza, ma ci sono anche state proteste in aula e queste proteste in aula hanno comportato la sospensione del question time. Tutto questo il 22 marzo, quando si votava nell'ufficio di presidenza il contributo di solidarietà degli ex parlamentari. Che vuol dire? Chi percepisce una pensione da un reddito da 70.000 euro avrà un 10% di contributo di solidarietà fino insomma ai redditi superiori ai 100.000 euro, dove c'è reddito che supera un certo tot e quindi il contributo era del 40%. Questo per non far perdere i diritti acquisiti agli ex deputati, agli ex parlamentari. Ora ovviamente tutto questo si è scontrato con i grillini che dicono che invece anche chi ha i diritti acquisiti dovrebbe avere il retributivo come tutti quanti e quindi c'è stata una baruffa davanti all'ufficio di presidenza il 22 marzo e adesso, come sempre succede, la Camera ha sospeso il Movimento 5 Stelle per una sospensione scolastica, come dici te, scaglionata in tre tranche tra diciamo così dal 6 aprile in poi, perché all'inizio della discussione del disegno di legge sul biotestamento i grillini avevano chiesto di essere in aula e ci saranno, quindi poi saranno scaglionati in più gruppi, insomma riguarda 42 parlamentari. Ora poi nel momento in cui è stata questa sospensione i grillini sono usciti in piazza Montecitorio, nella protesta c'era anche Roberto Fico, hanno fatto vedere tutti quanti i parlamentari. Sentiamo cosa ha detto. È una bella botta, ma sinceramente quando tu lotti per ciò in cui credi e sei l'opposizione e usi tutti gli strumenti per fare un'opposizione seria e anche costruttiva con delle proposte importanti, va bene anche la sospensione. Insomma, l'accusa è quella di attentato a funzionamento delle istituzioni. Sì, insomma, loro commessi rimasero anche leggermente feriti, ma insomma andarono in infermeria. c'è stato una protesta molto molto dura del Movimento 5 Stelle, oggi invece c'è stata una protesta un pochino più soft, sono usciti con questi cartelli facendo vedere chi aveva votato questo contributo di solidarietà che comunque permetterà di risparmiare 2,5 milioni e Luigi Di Maio continua a dire lo fanno per la pensione, lo fanno per la pensione, però ricordiamo che attualmente i vitalizi sono stati aboliti e che per i nuovi parlamentari c'è il retributivo per tutti, scusate, il contributivo per tutti, non il retributivo, il contributivo per tutti, quindi mentre prima i vecchi parlamentari avevano il retributivo e bastava pochissimo, e questi pochi vecchi anni, parlamentari dovranno pagare un contributo di solidarietà, quelli che avevano la pensione con il retributivo, i nuovi parlamentari da tempo sono stati aboliti, i vitalizi avranno invece il contributivo, per cui matureranno a secondo di quello che hanno versato dopo i 65 anni d'età, quindi non è che dopo 4 anni, come dice Luigi Di Maio, loro poi vanno in pensione a 65 anni e hanno la pensione, avranno quello che hanno versato come parlamentari e come invece normali cittadini quando lasceranno Montecitorio. È però un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle ed è una battaglia che da una parte trova il consenso degli italiani perché molto spesso sappiamo che i parlamentari sono sempre stati accusati di avere degli stipendi un po' troppo alti e anche dei privilegi che ancora in parte persistono. Questo bisogna dirlo. Ecco. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie Betta Fiorito da Roma. Grazie a voi. Ciao Betta. Ora vedo ancora tanti vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Diop da Torino scrive: Roberta, volevo parlare del ragazzo che è stato ucciso, in Italia c'è un problema, quando si vede qualcuno che ha un problema non cercano di aiutarlo, dicono solamente fatti i fatti tuoi, non va bene, dice Diop, che credo che sia immigrato, non so da quanti anni Diop, ma scrivilo, ringrazia per l'informazione che do tutti i giorni con Effetto Notte e tutta Radio 24. E poi invece un altro ascoltatore dice: quel povero ragazzo è stato ucciso anche per invidia, lui bello con una bella ragazza, gli altri brutti, sfigati, cocainomani, e scommetto senza una ragazza, sicuramente dei frustrati, pieni di vuoto sicuramente. Poi un altro messaggio: ma non è che quegli animali che hanno ucciso quel povero ragazzo erano sotto effetto di quelle nuove droghe che provocano violenza? Spesso purtroppo non servono neanche le droghe, diciamo questo, ma tra poco parleremo di un altro tema. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato delle complicazioni incredibili che questo iter della Brexit conoscerà per quanto riguarda la Gran Bretagna, il governo, il Parlamento, eccetera. E questo è soltanto il giorno numero uno di questo iter per il divorzio dall'Unione Europea. E poi ci siamo concentrati anche in parte sulla politica italiana, perché oggi sono stati sospesi dalla Camera 19 per 15 giorni, 19 deputati dei 5 Stelle e altri 29 per una decina di giorni per quello che era successo lo scorso 22 marzo, quando i 5 Stelle irruppero nell'ufficio di presidenza per protestare contro quelle procedure che riguardavano le pensioni dei parlamentari. Adesso invece ci occuperemo di terrorismo. Voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli altri SMS, WhatsApp al 349-238-6666. Per quanto riguarda appunto il tema che tra poco tratteremo. Giorgio dice: non capisco come si possa blindare i confini, come ha detto oggi il leader della Lega Salvini. Operativamente che cosa intende? Sicuramente l'attività di investigazione come quella attuata a Venezia e nelle altre città del Veneto coinvolte può funzionare molto bene e deve essere tanto puntuale e circoscritta quanto penetrante. Poi Francesco dice: la strategia dell'ISIS di arruolare idealmente i fanatici è geniale nella sua sanguinaria spregiudicatezza, che per quanto il sistema di prevenzione sembri funzionare in Italia meglio che in altri stati, non potrà esserci sempre un poliziotto per ogni folle. Questo insomma viene comunque ripetuto, che l'imprevisto non è che si possa controllare centimetro per centimetro, giustamente come rileva Francesco. Bene, adesso vi ricordo velocemente quali sono i fatti principali della giornata e poi cominceremo a soffermarci su questo tema. I dazi di Trump sui prodotti dell'Unione Europea, nel mirino anche la Vespa della Piaggio. Il presidente del Consiglio Gentiloni dice: la qualità non deve avere frontiere, e contrario a questo protezionismo anche Facebook Italia, che parla di disastro. E poi blitz contro i vitalizi, stangata sui, a proposito del blitz che c'è stato il 22 marzo scorso, stangata sui deputati del Movimento 5 Stelle, totalmente 42 sospesi per una quindicina di giorni. E poi ci sono gli Stati Uniti che avvertono l'Italia che ci sarebbero dei legami tra il Movimento 5 Stelle e Mosca. Poi magari ne parleremo. E poi questa cellula jihadista di cui ci occupiamo adesso a Venezia è stata sgominata. Il bersaglio sarebbe stato il ponte di Rialto, dove volevano mettere una bomba. Per quanto riguarda le pensioni, secondo i dati INPS sono 18 milioni dall'inizio del 2017, il 63% è sotto i 750 euro, ancora meno per le donne. E poi regioni in rosso migliorano i conti nella sanità, ma la sanità non è adeguata in diverse regioni che riguardano in particolare il sud. Processo rating a Trani, tutti assolti gli imputati delle agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch che declassarono l'Italia. I PM parlano di amarezza, ma dicono: comunque noi abbiamo condotto la nostra battaglia. Quindi, come dicevamo, è stata sgominata nella notte una cellula jihadista a Venezia, sono stati arrestati 3 uomini sotto i 30 anni e un minore è stato fermato, tutti dal Kosovo, progettavano un attentato per fare centinaia di morti. In un'intercettazione si è sentito a Venezia: guadagni subito il paradiso per quanti miscredenti ci sono qua, metti una bomba a Rialto. Da queste intercettazioni insomma i magistrati hanno capito che si trattava davvero di persone pericolose che stavano intentando attività criminose, si stavano insomma praticamente autoallenando, autoaddestrando per la jihad. Ne parliamo con la nostra Silva Menetto, che è a Venezia. Silva, ci racconti un po' la vicenda? Intanto buonasera. Ciao, certamente Silva. Questa mattina ci siamo ritrovati tutti a parlare un po' increduli di quanto era accaduto nel corso delle prime ore della mattina, delle primissime ore della mattina, perché Venezia da tempo è reputata obiettivo sensibile, da tempo è sotto l'attenta osservazione delle forze dell'ordine, ma non c'è in città percezione di pericolo, questo va detto. E quindi questa mattina, quando sono stati spiegati i dettagli di quanto era avvenuto nel corso della notte, veramente c'era un po' della sorpresa anche fra noi stessi addetti ai lavori. Quello che più ha stupito è che erano persone assolutamente dalla vita, diciamo, normale in apparenza, che avevano dei profili social normali in cui scambiavano delle banalità quotidiane, e solo la costanza, l'assoluta costanza delle forze dell'ordine e degli investigatori ha permesso di andare a scavare e di intercettare, pedinare e trovare anche tutti gli agganci che erano nascosti nei loro profili fantasma dei social. Avevano dei nickname, parlavano con contatti di tutto il mondo, contatti prevalentemente di carattere terrorista o comunque legato alla jihad, alla lotta santa, all'accusa contro questo Occidente che tratterebbe male i musulmani. Le intercettazioni sono particolarmente chiare in questo, ci sono voluti dei mesi. Come tu dicevi giustamente, la frase che ha fatto scattare l'operazione, il blitz è stata proprio quella relativa al fatto che se colpisci Venezia ti guadagni immediatamente il paradiso e quindi mettiamo una bomba a rialto. E la reazione dell'interlocutore a questa affermazione è stata: sì, mettiamo una bomba e poi facciamo pum. Effettivamente c'era già un accordo, c'era concordanza di intenti fra questo gruppo di persone. Non sono stati trovati non sono state trovate molte armi, sono stati trovati molti materiali informatici nelle 12 perquisizioni che sono state eseguite, e questo ci spiegavano gli inquirenti anche perché nell'imminenza di un attentato le armi si trovano abbastanza facilmente, soprattutto perché si trattava probabilmente di armi bianche. Tutti i video di autoaddestramento erano relativi a armi bianche, a come colpire e a come ottenere il massimo effetto aggredendo una persona all'arma bianca, col coltello. Grazie Silvia Benetto da Venezia, buon lavoro Silvia. Grazie. Io farei sentire, ciao Silvia, farei sentire di nuovo brevemente il procuratore di Venezia oggi, cosa ha detto? Sono stati assicurati alla giustizia quattro terroristi davvero, davvero molto pericolosi che stavano progettando tutta una serie di attentati e all'estero ma anche in Italia. E saluto a questo punto Gabriele Iacovino, che è analista del CESI, del Centro Studi Internazionali. Buonasera Iacovino. Buonasera, salve. Insomma, preoccupante, no? Perché avevano vite ordinarie, facevano i camerieri in alcuni locali di Venezia, vivevano in appartamenti proprio nel centro storico di Venezia, non davano adito a sospetti, almeno così superficialmente. Poi, grazie appunto alle forze dell'ordine, all'intelligence. A proposito, c'era un ascoltatore e molti hanno fatto i complimenti alle forze dell'ordine, ai 007, alla procura, alla prefettura. Quindi vuol dire che il sistema Italia da questo punto di vista funziona bene? Beh, finora sì, assolutamente sì, e il caso di Venezia lo dimostra ancora una volta, sia dal punto di vista dell'intelligence, quindi della raccolta informativa e del lavorare un po' dietro le quinte senza molto apparire, sia da un punto di vista del controllo del territorio, di polizia e carabinieri, quindi di forze dell'ordine. Sì, delle vite normali, ma appunto è proprio questo il rischio, comunque come di fatto gli ultimi eventi in tutta Europa, soprattutto Francia, ma anche gli ultimi eventi della stessa Gran Bretagna dimostrano, c'è l'attivazione di piccole cellule o di singoli individui che di fatto non alzano tanti campanelli di allarme e poi vanno a colpire dei luoghi pubblici, dei luoghi anche se vogliamo sensibili come Westminster. Fortunatamente nel caso di Venezia ci sono stati gli elementi appunto per fermare questa possibile operazione terroristica, anche perché uno degli appartenenti a questa cellula aveva avuto dei legami con la Siria, si era anche recato in Siria per combattere il proprio jihad, e quindi fortunatamente le forze dell'ordine, le forze di intelligence italiane sono riuscite a bloccare questa operazione. Iacovino, cosa pensa di questo allarme che arriva da Parigi, che una notizia di poco fa, il quotidiano Le Figaro, che dice Parigi teme un kamikaze con virus infettivi? L'arma batteriologica, l'arma chimica è il grande obiettivo di tutti i gruppi terroristici degli ultimi anni. Perché? Perché è un qualcosa che terrorizza la vita comune, terrorizza la vita di tutti noi. Perché? Perché non è un'esplosione, è qualcosa di poco rintracciabile, ma che può causare grandissimi danni e tantissime vittime. Ripetutamente nel corso degli ultimi anni si sono sempre ripetuti questi allarmi. Fortunatamente, anche per la complessità di produrre un'arma batteriologica, un'arma chimica o comunque anche un elemento che sia che possa provocare un attacco del genere, la complessità di queste procedure finora hanno comportato un rischio meno elevato, anche pensiamo solo al trasporto all'interno del territorio europeo di un'arma di questa portata. Finora appunto questi allarmi poi si sono fortunatamente rilevati infondati, rimane il fatto che i terroristi, il gruppo terroristico nel corso degli ultimi anni, che sia Al-Qaeda che sia lo Stato Islamico, ha sempre avuto questo male. È vero anche che gli ultimi sviluppi che abbiamo appunto notato dello Stato Islamico portano a una minore organizzazione, ma a un terrore diffuso, se vogliamo, quindi a uno Stato Islamico che si fa più ideologia a portata di mano di chiunque rispetto a un'organizzazione strutturata, però di fatto il rischio c'è sempre. Grazie Gabriele Iacovino del Cesi. Grazie a voi. Viabilità. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo in pochi secondi, principalmente Stati Uniti, col presidente Trump che annuncia dazi sui prodotti europei, ne parleremo tra pochissimo. Terrorismo, blitz a Venezia, ne abbiamo appena parlato, contro una cellula jihadista che voleva mettere una bomba sul ponte di Rialto, e in Francia Le Figaro che rivela Parigi teme un kamikaze con virus infettivi. Poi Movimento 5 Stelle per la bagarre sui vitalizi alla Camera dello scorso 22 marzo, 19 pentastellati sospesi per 15 giorni e 29 per 10 giorni. E l'omicidio di Alatri, stasera la notizia sull'autopsia di Emanuele Morganti, sarebbe stato sfigurato da tantissimi colpi in testa. Ci colleghiamo con New York, con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Ciao caro Marco. Pronto, eccomi. Allora, questa minaccia di Trump nei confronti dell'Europa di mettere dazi al 100%, ci rimetterebbero soprattutto Italia, Germania e Francia dalla lista dei 90 prodotti che vedo qui, da partire dalla Vespa della Piaggio. E, che dici, è una questione reale? È davvero una vendetta nei confronti dell'Europa che non vuole la carne agli ormoni americana? Ma è una vecchia questione questa della battaglia sulle carni. Così di manzo agli ormoni, che si trascina da tempo con alti e bassi, da decenni, da vent'anni. Ecco, quello che è cambiato è che con questa amministrazione chiaramente i toni così aggressivi sul fronte commerciale sono cresciuti di molto e ci sono molte incognite. Uno dei primi test sulla serietà, la gravità, l'aggressività effettiva, concreta dell'amministrazione Trump sarà proprio appunto non con il Messico, con la Cina, finora così obiettivi preferiti a parole delle uscite commerciali di Trump, ma in realtà con l'Europa, perché una delle prime decisioni che sarà sul tavolo, sulla scrivania del rappresentante commerciale di Trump, che deve essere a poco confermato dal Congresso, sarà la decisione sull'imposizione eventuale di dazi punitivi in risposta a quelle che sono le proteste dei produttori di carne americani, che secondo i quali l'Europa non starebbe rispettando patti passati sull'importazione di carni senza ormoni americane. Ecco, sono accordi che risalgono al 2009 sotto Obama, per cui erano state sospese sanzioni americane in risposta al blocco delle carni agli ormoni. Fu raggiunto un accordo che prevedeva la sospensione delle sanzioni americane e l'importazione di fino a 50.000 tonnellate di carni americane senza gli ormoni. Finora è andata sostanzialmente bene, ma negli ultimi tempi i produttori americani hanno risollevato le loro proteste dicendo appunto che gli europei non rispettano secondo loro l'impegno all'apertura adeguata dei loro mercati, e hanno a questo punto l'ufficio della Casa Bianca, commerciale della Casa Bianca, ha preparato questa lista di 90 categorie di prodotto che, come ricordavi tu, sono soprattutto prodotti di fascia alta, quindi acque minerali, foie gras, Roquefort, il formaggio Roquefort francese, gli scooter di piccola cilindrate, che quindi comprendono la Vespa, ma anche cioccolato e alcune marmellate, insomma prodotti simbolo, ecco, se si vuole, che potrebbero essere colpiti, come dicevi, da dazi del 100%. È ancora presto per sapere se scatteranno davvero. La decisione però potrebbe arrivare a breve e sarà, come dicevamo, un test davvero cruciale, che va anche come importanza al di là dei prodotti stessi coinvolti. No, per capire insomma i rapporti tra Stati Uniti e Europa in particolare. Esatto. Grazie Marco Valsania da New York. Ciao Marco. A voi. Noi ci risentiamo brevemente per gli aggiornamenti alle 22.